dal telescopio all'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia stare sotto le coperte, non sopra le copertine. L'amore a prima vista è un sentimento splendido. Mi ha detto un indovino che legge le carte di credito. Vomito, amore tossico. Per me sei stata il mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro. Di storie ce ne sono tante. Pensavo fossi l'ultima e invece no. In fondo anche tu sei solo un segno in più che sulla pelle fa più male. Continuerà a bruciare anche se ora lo so che in fondo anche tu sei solo un segno in più. A volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo a luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambia anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora sei il cuore del problema. Non ho difficoltà a dirti quel che penso in faccia, anche se non sembra, so bene quello che faccio. La verità è che ho invertito il senso di marcia. Da quando ho avvertito il senso di marcio. Arrivi portando brividi e scappi lasciando lividi. Gli opposti si attraggono ma amano i propri simili. Sentimenti tossici, per loro non c'è cura. Perché l'amore è eternit finché dura. Di storie ce ne sono tante. Pensavo fossi l'ultima e invece no. In fondo anche tu sei solo un segno in più che sulla pelle fa più male. Anche se ora lo so che in fondo anche tu sei solo un segno in più. Fermo, immagine, sembra appartenere ad un'altra vita. Un cielo instabile che quasi sembra piangere, piangere. Ed io che torno tardi sola e penso che di storie ce ne sono tante. Pensavo fossi l'ultima e invece no, e invece no. E invece no.